A tempo di sport con Carlo Genta. I think that is a crazy finish for a crazy season. I have never seen a final like this. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Cantamos la música. Cantamos o no? Vamos, cantamos a música, caraca, não. Oscar, cantamos, não? Caranca português, caranca português. Caranca português. Buon pomeriggio a tutti. Franco Piantaneda in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Io sono Carlo Genta e oggi avremo modo di chiacchierare e divertirci, io spero, insieme dal lunedì al venerdì, salvo il periodo degli europei in cui tornerà Gigi Garanzini. Sono stato a lungo indeciso negli ultimi tre giorni, ve lo confesso, compreso ieri in diretta dal Salone del Libro di Torino, se definire questo weekend come il weekend degli scudetti o il weekend dei fazzoletti. Ho deciso di usare tutte e due le espressioni, e anche poi vi farò sentire tutti e due gli effetti sonori. Li avrete, io credo, riconosciuti, vabbè, i cori della festa della Juventus, perché è stata solo una grande bellissima festa quella bianconera allo stadio, che poi si è trasformato più che nello scudetto dei nel Del Piero Day, come era quasi normale che fosse. Poi Mancini, crazy day, crazy title, crazy match, crazy tutto quello che volete. Fosse stato dalle nostre parti, insomma, sarebbe finito in un'altra maniera, credo. Poi avrete riconosciuto gli Oasis, che sono i tifosi VIP del Manchester City, squadra proletaria di Manchester, che non vinceva un titolo da 44 anni e ne ha 23, quello di ieri era il terzo in tutta la sua storia. E poi Mourinho, perché ha fatto come Conte, si è presentato in conferenza stampa con tutti, esibendo tutti i suoi uomini, tutti portoghesi tranne Caranca portoghese. E quindi abbiamo sentito anche Mourinho cantare. Vorrei sentir cantare anche Maurizio Crosetti, inviato di Repubblica e autore di un libro di cui tra poco parleremo. Ciao Maurizio. Buongiorno, vi risparmio però qualunque tonalità, per grazia e misericordia. Non fai come Mourinho. No. Ma direi che non è il caso. Neanche come gli Oasis, vabbè. Magari no. Senti Maurizio, per la Juventus è stata solo una grande festa, per il Real Madrid record raggiunti, per il City viaggio all'inferno e ritorno. Poi quando il QPR, allenato dall'ex che se n'era andato col dente avvelenato Mark Hughes, ha saputo della notizia dello Stoke che ha pareggiato con il Bolton, condannando il Bolton, ecco i due gol scudetto. In Italia oggi saremo tutti in fila, io, te e un sacco di nostri colleghi, tutti in fila davanti all'ufficio inchieste. O forse no, perché poi qualche volta l'ufficio inchieste sveglia anche con un po' di ritardo, perché tutto sommato c'erano state delle segnalazioni per il primo caso di scommesse che l'ufficio inchieste, insomma, aveva un po' lasciato nel cassetto, poi si è mosso con tempi, vabbè, un po' da bradi, poi si vedrà. Sì, certo, il sospetto alimenta se stesso, nel senso che noi saremmo davanti all'ufficio inchiesto, penseremmo che ci dovremmo andare, sì, perché abbiamo un po' di coscienza sporca, perché insomma non siamo proprio il migliore e il più corretto dei mondi possibili, però insomma, dopodiché il calcio inglese si dice sempre che è un grande esempio di emozioni, di sportività, di tutto, e quindi insomma speriamo di non doverci svegliare e dire no, facciamo i biscotti, anche loro i cake, anzi, facciamo i grand cake, speriamo di no. Però quando ho visto il gol di Agüero col portiere che era in mezzo alla porta, vabbè, sai, siamo italiani, quantomeno io sono classico italiano medio dietrologo e dico, vabbè, dai, fatto la torta, dai, su, è arrivato arrivato il risultato. Agüero è mica inglese, quindi è latino come no. Quindi sapeva perfettamente dove piazzare quel pallone. Sicuramente. Per la Juventus invece, ieri il nuovo scudetto nel nuovo stadio non fa dimenticare il numero delle stelle in questo conteggio che trovo alla fine un po' peloso, specie nel momento della gioia selvaggia, almeno io. Sinceramente lascerei la questione delle stelle a tutti quelli che hanno memoria delle stelle, sono tante, milioni di milioni, sì. Negroni vuol dire qualità, basta. Basta con questo computo di aritmetica un po' livorosa e soprattutto ingenerosa nei confronti di questo scudetto. Cioè, questo scudetto è unico. Bravo. Ieri sera la Juve l'ha festeggiato, il popolo della Juve l'ha festeggiato come se avessero vinto la Coppa dei Campioni, la Coppa del Mondo, la Coppa della Galassia. Il numero 1 è il numero più importante del numero 30 o 28, cioè uno scudetto secondo me in tanti anni di storia, non so se è il più importante, se è il più bello, se è il più sentito, ma se non è così ci va molto vicino. E di fronte all'emozione che tutto questo porta, al desiderio di tornare in piazza, di sentirsi, di riappropriarsi in qualche modo della propria identità che era smarrita, unita anche a questo grande addio commovente, certo, con Del Piero, ma insomma chi se ne frega dell'ufficio inchieste, dello scudetto di cartone, della contabilità, della terza stella. Oggi è un'altra la festa della Juve, è la festa di questo grande, meritatissimo scudetto, il resto è robetta. Sono d'accordissimo, che purtroppo so chi se ne frega il presidente per primo. Sì, va bene, ma Agnelli ha parlato alla pancia dei tifosi perché aveva bisogno di insediarsi con un certo piglio e anche consigliato da persone che sanno come si fa quel mestiere, l'ha detto anche lui. Cioè, uno dei principali consiglieri di Andrea Agnelli si chiama Antonio Giraudo, che peraltro è un personaggio radiato dalla giustizia sportiva ma non dal cuore di Agnelli, ed è giusto così perché era uno dei migliori amici di suo padre, il costruttore di una Juventus che comunque non ha vinto soltanto grazie a Moggio, alle tessere arbitrali, ma anche grazie alla forza che aveva sviluppato in tanti anni, alla competenza di chi la guidava, quindi questo va ridetto. Certo. Dopodiché Agnelli ha avuto bisogno di entrare nelle grazie dei tifosi facendo la faccia cattiva e parlando alla pancia dei tifosi, però adesso secondo me dovrebbe usare la testa e meno la pancia per capire che comunque Agnelli vuol dire Juve, vuol dire stile, e non soltanto rancore, livore, vendette, epurazioni, squalifiche dei personaggi sgraditi. Questa è una cosa che con la Juve dovrebbe avere, cioè la Juve non ha bisogno di queste cose, di questa arroganza per essere la migliore, come non aveva bisogno di mandare gli arbitri al trofeo Birra Moretti per essere la migliore, perché la Juve è stata rovinata da Moggi per eccesso di golosità, come quando si vuole mangiare tutte le paste del vassoio e poi si fa indigestione. Benissimo. La Juve era più forte lo stesso, anche senza Moggi Giraudo. Benissimo. Secondo me. E poi Benissimo. Ne parliamo meglio, perché non lo meritano Marchisio, Chiellini, Lichtsteiner, Buffon, Del Piero, Vidal, non meritano questa computisteria di bassa lega. Sai, loro meritano questo, la celebrazione del loro scudetto e basta. Ed è per questo che mi dispiace molto che ciò sia avvenuto, semplicemente questo che dico, mi dispiace molto che ciò sia avvenuto a sporcare in qualche modo questi meriti indiscutibili. Poi avremo modo di parlare anche degli altri grandi eventi sportivi della domenica, che non calcistici, come anche dell'Eurolega, come mi chiedono molti ascoltatori via SMS. 349-238-6666 invece è il numero verde, e giochiamo ancora con Maurizio Crosetti, perché questo è il titolo di un libro che ha scritto con Alessandro Del Piero, che di smettere di giocare non ci pensa perché si diverte ancora come un matto, io credo. Però Maurizio, prima o poi bisogna anche appendere le scarpette al chiodo, non è il caso di Del Piero, magari di qualche milanista sì. Bisogna smettere prima di diventare un po' patetici, come qualche volta mi sembra Mick Jagger che fa la caricatura di se stesso. È vero, bisogna sapere quando arriva il momento e possibilmente anticiparlo, come si fa con un avversario, anticiparlo di anche solo di un attimo. Del Piero però quell'avversario lo sente non proprio a ridosso, non ancora, e vuole concedersi uno o due anni patetici, veri, chiaramente come, dove, quando lo vedrà lui, lo saprà lui, però questa voglia di giocare è la ragione per cui non rimane alla Juve e non vuole fare un altro anno in panchina, insomma. Poi sì, questo desiderio di gioco secondo me va rispettato, hai ragione, non deve diventare il patetismo dell'atleta o della star che non riesce a dire addio al palcoscenico. Questo, ma non è il caso di Alessandro, l'ho conosciuto molto bene facendo questo libro con lui, E vi assicuro che non è un capriccio, non è rimanere incollati al cadreghino, alla calamita che ci tiene stretti al nostro passato, per cui non vogliamo andare in pensione neanche a 90 anni e piangiamo. Non è il caso di Alessandro, lui è un calciatore, del resto l'epilogo di questa stagione ha dimostrato quanto sia ancora decisivo, integro, giovane anche nel fisico, nella testa, quindi insomma io credo che sia legittimo che lui giocare ancora. Anche il sopportare tante cose in questa stagione, Maurizio, perché più volte mi è capitato di dire nel corso della stagione Del Piero, lasciamo stare la storia del contratto, però un trattamento come quello che in alcuni casi gli ha riservato Conte, cioè 88esimo entra, secondo me è stato un po' irrispettoso di ciò che vale Del Piero per la gente della Juve. Togliamo pure un po', è stato decisamente irrispettoso e qualche volta esagero, è stato offensivo, anche se sì, non si spara su San Conte e su Sant'Agnelli, però lo hanno messo in una posizione difficile, davvero triste. Non si fa così, non si fa così, non si dice a Del Piero a ottobre sarà l'ultimo anno, non si ascolta la direttiva del presidente trasformandolo nel quinto attaccante nella gerarchia dell'attacco juventino, non gli si fa giocare 2 minuti di recupero, non lo si fa rimanere in panchina per tutta la partita nella partita dello scudetto a Trieste, insomma gli hanno fatto qualche dispetto, però lui secondo me è stato grandissimo, sì, anche in questa sua scelta stilistica che è verso se stesso più che verso Contagnelli, la Juve. Verso se stesso vuol dire che se lui non fosse rimasto Del Piero fino in fondo si sarebbe tradito, avrebbe tradito l'immagine che ha di sé e il convincimento, la convinzione che non si può essere sportivi solo quando fa comodo, no? Essere bravi e buoni e belli e generosi solo quando tutto va bene. E io l'ho apprezzato tanto, ho vissuto con lui mesi più difficili. Guarda, vi assicuro che si è mangiato la lingua veramente in un modo impensabile. Io più che in ogni altra fase della sua carriera, ti dico la verità, non sono un del Pieriano, ti dico, in questa stagione l'ho ammirato come mai avevo fatto prima, e proprio per questi motivi. Io credo che scrivendo comunque questo libro ti sia passato per la testa un pensiero, no? È chiaro che ci sono dei giocatori che comunque rappresentano un pezzo della nostra vita, non solo calcistica, un pezzo della vita dei loro tifosi, cioè 19 anni, non serve scomodare Nick Orbi che ha ricostruito in quel meraviglioso Febbra 90 la sua vita attraverso, scandita dai momenti dell'Arsenal, però molti tifosi sono cresciuti con Del Piero bianconero e si ricorderanno le prime fidanzate, il primo bacio e che ne so, il primo figlio, eccetera eccetera eccetera. Rappresentano certi giocatori un pezzo della nostra storia. È così, ed è la loro forza emotiva, il fatto che vogliamo loro bene indipendentemente dal tifo, perché ci ricordano noi stessi, come succede per i grandi libri, no? Si dice un grande libro ti colpisce perché sembra che stia proprio parlando di te, dici ma come, quello lì sono io, e i grandi campioni parlano della tua vita perché la scandiscono, perché noi quella sera dell'11 luglio 82 non c'entra Del Piero, c'entrano altri ricordi, sappiamo tutti perfettamente dove eravamo, ma cosa facevamo, i gesti, chi c'era, chi c'era, chi non c'era, e Del Piero è lo stesso la sera della Coppa nel 2006, ma tanti altri passaggi in cui comunque 19 anni sono un pezzo della vita. Ieri Buffon era commosso perché diceva metà della vita Del Piero l'ha passata qua e adesso se ne va, e poi diceva ma metà della vita, ragazzi, ma ci rendiamo conto? Cioè metà della vita è tanto. E quindi la grande forza emotiva dello sport è anche questa capacità simbolica di farci rappresentare da qualcuno, no? Nel senso che questi sono personaggi che ci rappresentano, che fanno qualcosa anche a nome nostro, a nome dei nostri sogni, quelli che volevamo realizzare, il sogno di giocare a pallone, chi è maschietto lo sa, di qualunque età sa che noi volevamo essere, tutti volevamo essere Del Piero, volevamo essere Totti, volevamo essere, ma chiunque, Marrone, volevamo essere Gianni Chedda, pur di giocare a pallone in Serie A. E io credo che ogni volta in cui vediamo che una storia del genere si realizza come se avessimo imprestato il nostro sogno a qualcuno che se l'è caricato in spalla e l'ha portato, no? L'ha portato con sé. Quindi io credo che questo significa rappresentare qualcun altro, e poi la possibilità di dare la gioia alle persone. Loro lo sanno, cioè Alessandro questo lo sa, cioè è consapevole che è anche una responsabilità grossa, cioè una fortuna e una grande responsabilità. Sicuro. Sapere che da quello che fai dipende la gioia, la felicità, anche solo per qualche istante, qualche volta anche la delusione. Sì, è tutto un gran miscuglio emotivo che devo dire il calcio regala, altrimenti non saremmo sempre tutti qui non è solo il tifo, no? Il calcio è molto di più. I grandi campioni sono come le grandi canzoni, rimangono comunque indimenticabili, e ogni tanto passa un filmato e ti vengono in mente un sacco di cose. Maurizio, io ti ringrazio, grazie davvero. Grazie, in bocca al lupo. Voi, buon lavoro. Grazie. Anche a voi, ciao. Grazie Maurizio Crosetti. Non gioco più, me ne vado, non gioco più. Questo stadio, i miei compagni, questa società tutta, è qualcosa di magico. Sono molto combattuto perché ho ancora una grande voglia, vedere anche i miei compagni così, questa gente, non ho parole. Avevo promesso che non uscivano a lacrime, invece ci sono cascate. Tante, sì, perché per me questi 13 anni è stato un sogno che adesso si è interrotto, però la vita continua, però sono cose belle. Se non riesco a giocare sempre periodi lunghi, partite importanti, così non mi sento bene, perciò è giusto che vado via. Di sicuro è stato commovente oggi, è un giorno incredibilmente bello per certi aspetti. È chiaro che ha un filo di tristezza in me e in tante persone, però è incredibilmente bello perché ho festeggiato davanti ai miei tifosi, insieme ai miei compagni, sul campo, con quello che è la cosa che mi piace fare di più, vincere. Tanto il mondo come prima. Sono qui per annunciare che queste saranno le ultime due partite mie con il Bologna. Ho passato 4 anni ricchi di soddisfazioni. Sono stati i 4 anni più importanti e significativi della mia storia calcistica. Le mie parole devono essere solo, non so come dire tante volte grazie, grazie, grazie, perché ho vissuto un sogno in tutti questi anni. Fatti sentire un po' tutti i tanti pezzi del nostro calcio, pezzi della nostra storia, i tanti giocatori che hanno deciso in blocco di salutare, però insomma piano con la tristezza, perché io credo ci sia un momento per tutto, anche per cambiare vita, no? Quindi commozione sì, forse, ma fino a un certo punto, perché leggo di Galliani che sta tentando in tutti i modi di convincere Gattuso a tornare sui suoi passi. Secondo me la decisione è presa, si gira a pagina e si va avanti, ma questo penso possa essere un bene per tutti. Costantino da Salerno, poi abbiamo tempo per parlare con altri ascoltatori. Buongiorno. Buongiorno a voi, volevo solo dirvi che avete detto delle parole bellissime, secondo me avete centrato esattamente le sensazioni di tutti noi riguardo alla storia di Del Piero. Lo dice un milanista che odia la Juve ma è del Pieriano, che sono anch'io come Del Piero del 74, e secondo me avete centrato esattamente quello che ha rappresentato sto ragazzo per noi. Volevo fare solo i complimenti, grazie. Grazie a lei Costantino, ma insomma, non si tratta di rappresentare, capiamo cosa vuol dire, cioè, i grandi campioni scandiscono, se siamo appassionati di sport scandiscono la nostra vita, ed è bello che sia così. Questa primavera degli AD si è aggiunto oggi anche Ruud van Nistelrooy, che giocava nel Malaga e a 35 anni ha deciso di lasciare il calcio. Tra gli altri che hanno parlato oggi, non per dire addio ma per dire altre cose, Massimo Moratti, che dice: partiremo dalle conferme per chi merita di restare, non è che oggi si farà tutto, c'è un periodo per capire le opportunità, che ci sono cose che dobbiamo fare. È stato chiesto, ma Moratti ha detto sono stati fatti molti errori in questa stagione, gli è stato chiesto ma gli errori più grandi degli allenatori o dei giocatori, ma è stato sbagliato un po' tutto, detto Moratti, però i giocatori l'impegno ce l'hanno sempre messo, quindi una risposta alla data. Ha parlato anche Prandelli, conferenza stampa di presentazione del listone dei giocatori che andrà agli europei. A proposito, ci sono alcune sorprese, non tanto destro, non tanto altri nomi che sono così comparsi, quanto almeno a me personalmente ha sorpreso la convocazione di Giaccherini al posto di un Pepe che secondo me ha giocato la sua miglior stagione che sia possibile ricordare. Questa scelta è stata abbastanza sorprendente, però Prandelli avrà modo di spiegarlo. Non l'ha fatto oggi, oggi ha parlato tra le altre cose anche della convocazione del figliolo nello staff, 27enne preparatore atletico del Parma, dicendo: auguro a ogni padre di poter lavorare con il proprio figlio se lo merita. Avevamo bisogno di due figure per integrare lo staff, lui ha le caratteristiche che conoscevi, i miei collaboratori per forza, sono amici del suo papà. Non ho pensato eventuali polemiche e ciascuno può pensare quello che vuole. A me continua a sembrare una scelta abbastanza così curiosa e bizzarra, anche perché un conto è Berlusconi che decide di inserire nella dirigenza del Milan una figlia Barbara, un conto è la nazionale che è un po' una cosa di tutti. Però insomma, se Prandelli così ha scelto, incurante delle critiche inevitabili o delle perplessità inevitabili che potevano accompagnare questa scelta, va bene così o no? 800 24 00 24, c'è anche chi chiede notizie, credo in chiave azzurra, su Chiellini, sospetto stiramento all'adduttore destro, ma bisogna aspettare gli esami, eccetera. Io credo che non sia un problema in prospettiva europea, certamente lo è per la Juventus in prospettiva finale di Coppa Italia in programma domenica. Massimiliano da Verona. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo soffermarmi un attimo sul concetto di bandiera, di uomo bandiera, che appunto in questi giorni abbiamo visto è particolarmente attuale, visto che sono diversi giocatori hanno lasciato squadre importanti. Però ecco, la riflessione su cui volevo fare, anzi magari la giro direttamente come domanda, giusto per sapere un'opinione, è questa: considerando il fatto che una bandiera si dice tale quando appunto resta nella memoria della gente, indipendentemente da quello che magari può essere il giro d'affari di una squadra, sì, grande o piccola che sia, non pensa così a, magari bisognerebbe fare una statistica, però così come opinione personale, non pensa che magari appunto il fatto proprio di diventare bandiera di fatto poi resti sulle punta delle dita e di conseguenza, indipendentemente appunto giro d'affari delle società, di fatto non rappresenti comunque un qualcosa che vada oltre, appunto, sì, e vada a toccare direttamente il cuore delle persone, dei tifosi. Ma questo è indubbio, su questo non ci sono dubbi. Se lei poi mi dice che uno che è diventato bandiera deve avere per forza la pensione garantita, io dico no, perché siamo comunque a livelli professionistici e quindi molti tifosi juventini dicono dovevano ieri già promuoverlo in dirigenza. A parte che Del Piero ha voglia ancora di giocare ed è una scelta legittima, io credo che poi non ci sia più nessun tipo di obbligo, nemmeno morale, se la Juventus deciderà di avvalersi dell'intelligenza di Del Piero all'interno della società, potrà farlo tranquillamente. Se invece deciderà di lasciarla ad un altro destino, di seguire un'altra strada, penso che sia del tutto legittimo, con buona pace di tutti, perché siamo comunque stiamo parlando di professionisti e di professionalità. Elia dalla provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, ciao. Ciao. Senti, cercherò di essere telegrafico, dunque volevo dire una cosa. Uno, il momento più bello del calcio tra parentesi, io sono juventino, sì, è stato quando una ventina di anni fa ho visto, credo, l'Everton perde all'ultima giornata 4-0, scendere nella Serie B inglese e ciononostante i suoi tifosi li hanno applauditi. Beh, ma cioè, non c'è bisogno di andare così indietro, abbiamo degli esempi anche quest'anno in Inghilterra. Okay. Ok, perfetto. Poi, la Juve ha vinto lo scudetto perché c'ha una ventina di ragazzi che ci hanno dato l'anima, scusate il mio accento poco torinese, poi un allenatore, Conte, che riflette ciò che era da giocatore, insomma, sì, un grande, e terzo lo stadio, nessuno, forse pochi ne hanno parlato, cioè questo stadio così bomboniera che praticamente fa sentire quelli che vengono da fuori una gabbia i leoni, appunto, quelli che stanno dentro. Solamente un piccolo neo, secondo me. E Conte, cioè io al posto suo avrei usato magari delle parole non così di circostanza, riferendosi a Del Piero. Cioè, voglio dire, secondo me Del Piero meritava qualche altra parola, insomma, tutto ma qua. No, se questo bisogna, è una domanda, una considerazione da girare a Conte. Conte avrà usato le parole che si sentiva di usare, cioè non vedo altre spiegazioni. Non si può entrare nelle scelte personali, cioè, io dico più che le parole di Conte verso Del Piero, valuto il comportamento di Conte per tutta la stagione nei confronti del capitano, che è stato, come dicevo prima e come ho avuto modo di dire tantissime volte, irriguardoso in alcuni momenti, perché per rispetto di ciò che più che altro di ciò che Del Piero rappresenta per i tifosi della Juventus, farlo entrare nei minuti di recupero quando classica sostituzione per perdere tempo, quando va bene anche un ragazzino, io lo trovo, per ciò che Del Piero rappresenta per la Juventus e per i suoi tifosi, riguardoso, oltre che per Del Piero stesso. Ma non di solo calcio viviamo. Ieri è stata una domenica estremamente intensa e mi sembra adesso e sempre il caso di allargare gli obiettivi, perché ieri abbiamo visto e sentito anche questo. Sì, sicuramente quando sei in testa alla gara sempre provi di finire la gara in quella posizione, però questa seconda posizione è al sapore di una vittoria. Sicuramente dopo il Bahrain, che hanno finito nonni, anche in Cina nonni con un distacco dal leader quasi da un minuto, qui invece a un certo punto stavamo doppiando una Red Bull, quindi sicuramente sono immagini opposte tra 15 giorni fa, e questo è molto positivo. Penso che è stata una gara interessante. Sì, una vittoria splendida che ci emoziona, che ci fa felici. Presa, Cristiano ha detto, per i capelli in sala stampa, presa in un tie break che è stato un mix di volontà, di forza, di capacità di rimanere lucidi, di voglia di tenere l'obiettivo. Siamo felici, vogliamo anche un po' dedicare questa vittoria al nostro paese, che negli ultimi mesi fa difficoltà a sognare. Noi la pallavolo femminile, la squadra femminile, i ragazzi e le ragazze del beach volley, vogliamo portare un piccolo contributo e far sognare questo paese dal 27 luglio al 12 agosto. Αστόσια και στις δύο βολές ο Σισκάουσκας, 61-60, πάμε για το τελευταίο σουτ, ο Σπανούλης με την μπάλα στα χέρια, Σπανούλης στη διείστηση, Πρίντεζης με το ένα χέρι, Ολυμπιακός, 7-10 απλό το τέλος, είναι πρωτοσύνη της Ευρώπης, τολμάω να το πω, παρότι υπάρχει χρόνος, Ολυμπιακός. Sì, è successo anche questo. Avete sentito Alonso ieri secondo in uno stranissimo Gran Premio di Spagna vinto da Maldonado, con la Williams che torna a festeggiare la vittoria di un Gran Premio dopo una montagna di anni, 2004 l'ultima volta con Montoya. E tutto sommato, quinto vincitore diverso in 5 Gran Premi, una Ferrari che viene premiata per una costanza di risultati, basta leggere le classifiche, che altri non hanno avuto. Brava la Ferrari a raccogliere risultati su terreni ampiamente sfavorevoli, e adesso vediamo che succede in un campionato mondiale di Formula 1 molto difficile da leggere. Poi abbiamo sentito Berruto, che alla guida della nazionale maschile di pallavolo ha raggiunto le Olimpiadi in finale ieri contro la Germania in un preolimpico in Bulgaria contro avversarie fortissime come era la Serbia che abbiamo battuto. Ebbene, in un torneo che era molto complicato per noi, invece grandissimi gli azzurri che sono riusciti a strappare il biglietto per Londra senza neanche bisogno di passare attraverso i ripescaggi che ci saranno. E poi l'abbiamo fatta sentire in lingua madre la telecronaca dell'incredibile vittoria dell'Olympiakos nella finale europea del basket. Certo, avremmo potuto e dovuto aggiungere la nostra clip, come suggerisce qualche ascoltatore, anche Federer che vince sulla terra blu, bellissima secondo me, di Madrid. Stefano Valenti, buongiorno. Ciao, buongiorno. Invece l'Olympiakos l'ho definita venerdì la squadra del destino, così è stato, anche se botta di culo da parte mia, non avrei mai azzardato altrimenti questo pronostico, però... Non hai scommesso? No, hai scommesso? No, 0-0. Tu? No, mai. Perché sei mica tesserato, No, no, parli con uno che aveva scritto un pezzo alla fine del terzo quarto, sulla finale di Eurolega, quindi insomma. Senti, la partita di ieri però è stata, vabbè, ieri di cose incredibili ne abbiamo viste molte, compreso Spanulis che si gioca a 7 secondi dalla fine la palla che vale il titolo europeo dei canestri come se fosse una palla di allenamento, batte Teodosic che non difende benissimo, scarica a Printezis che segna il canestro che dà la vittoria all'Olympiakos Pireo che all'inizio della stagione era una squadra ridimensionata. Ho detto bene? Sì, era ridimensionata dalla crisi, ma è chiaro che il greco non è la lingua madre della zona euro, ma è la lingua madre del basket, perché insomma ha vinto l'Olympiakos, ma l'anno scorso aveva vinto il Panathinaikos, quindi insomma evidentemente i greci hanno qualcosa dentro, questo è fuori di discussione, perché la vittoria di ieri è stata una vittoria greca su giocatori greci per certi versi arrivati all'Olympiakos anche per la crisi economica. L'Olympiakos è la squadra che fino a pochi anni fa metteva in quintetto giocatori di livello anche contrattuale NBA, mi riferisco a Kleiza, mi riferisco a Childress. Poi invece ha cominciato a investire su giocatori greci, ha riportato in casa sua Printezis che veniva da Malaga, dalla Spagna, ha ripreso, quella è stata la grande operazione di mercato, Spanulis, sottraendolo clamorosamente agli arcinemici del Panathinaikos. Ieri ha vinto con il 21enne Papanikolaou che ha giocato la miglior partita della carriera, magari mettiamoci un canestro da tre di Mantzaris, altro classe 1980. È stata una vittoria greca dall'inizio alla fine. Ivković è serbo, ma Ivković è al di sopra delle parti. Però credo, adesso non ho fatto i calcoli, ma è stata in assoluto la finale di Eurolega dove i giocatori di passaporto americano hanno avuto il minor impatto nella storia. Diciamo che hanno fatto 1 su 12 al tiro in 4 tra quelli schierati da una parte e dall'altra. Quindi guarda, è stata Stefano, finale di Eurolega, finale europea, ha vinto una squadra greca che a inizio stagione forse non era considerata, forse non era una squadra, lo è diventata negli ultimi 2 mesi e le stagioni si decidono negli ultimi 2 mesi. Assolutamente, un discorso che poi faremo con calma sta nel notare come nelle 4 che hanno giocato le Final Four le superstar erano tutte autoctone, da Kirilenko a Spanulis, Navarro, ma certo, Navarro nel Barcellona. Le superstar avevano tutte la faccia autoctona, i giocatori europei erano quelli importanti delle 4 squadre e gli americani comunque in queste 4 squadre erano grosso modo quelli che passavano la borraccia, cioè attori non protagonisti. Credo che in questo stia un messaggio forse o un insegnamento anche alle nostre. Grazie Stefano! Grazie a voi. Grazie, un abbraccio a Stefano Valenti. Adesso però andiamo di corsa al Giro d'Italia perché abbiamo premi da assegnare, notizie da dare, eccetera. Voci dal Giro. Dunque, per prima cosa la domanda che ogni giorno vi permette di vincere un polsino di Radio 24 autografato da Ivan Basso. Rispondete al 349-238-6666. Chi fu il primo svizzero a vincere il Giro d'Italia? Dunque, votate e il primo che dà la risposta giusta si porta a casa questo polsino. C'è anche in palio il giro sulla ammiraglia della Liquigas nella tappa del 20 maggio. La deadline è domani, quindi scade domani il termine per inviare un vostro racconto del giro in 10 riga da Tempo di Sport at radio24.it o nella sezione dedicata al giro sul nostro sito radio24.it. Poi ne leggerò uno che tra i più belli che ci sono arrivati di questi racconti e poi a nostro insindacabile giudizio daremo il nome del vincitore. Pier Augusto Stagi dal Giro d'Italia, buongiorno. Buongiorno a te Carlo, ciao. Oggi tappetta. Al momento sì, tappetta. Corta. Tappa di 166 km, c'è una fuga di 3 corridori, un francese e 2 olandesi, sono andati via al chilometro 2, il gruppo li tiene lì a 3 minuti e mezzo, non hanno mai guadagnato più di tanto, il vantaggio massimo 3,52, adesso sono a 3,16, procedono verso Frosinone dove molto probabilmente ci sarà la volata. E molto probabilmente Mark Cavendish, campione del mondo in carica, cercherà di vincere l'ennesima tappa, sarebbe la terza in questo Giro d'Italia. Qualche polemica, qualche mugugno nei giorni scorsi, Cavendish ha rischiato di uscire fuori tempo massimo, non ci sono le prove, la giuria dice no, ha fatto sempre tutto correttamente, però stanno saltando fuori anche qualche video di qualche tifoso dove Cavendish si vede chiaramente che è stato spinto, come capita peraltro spesso e volentieri. Allora ci sono i velocisti che dicono sì, però noi mentre lui si fa spingere ne abbiamo fatto fatica, però nessuno ha il coraggio di denunciare il fatto, e perché sai, poi hanno paura delle ritorsioni. Ma chi poi, no certo, i corridori hanno paura delle ritorsioni, mugugnano eccetera eccetera, all'establishment conviene mantenere il più lungo possibile una delle stelle, quindi tutti esatto, d'accordo così, esatto. Oggi si fa la volata verso che ora? La volata intorno alle ore 5. 17. Intorno alle ore 17 Cavendish vince al prossimo cavalcavia, si stacca il giorno che decide di tornare a casa. Ciao a tutti, però mi pare che grosso modo possa andare così, no? Esattamente, esattamente. Allora ci sentiamo più tardi. No, dimmi. Va bene, no, dimmi, cosa stavi dicendo? Cosa credi? Che credo che arriverà a Monteatini. E poi probabilmente potrebbe anche caricare la bicicletta sull'ammiraglia e tornarsene a casa. Senti, ma la prima tappa vera con le lettere maiuscole quando la vediamo? Fine settimana tappa di Cervinia, lì cominciamo a capire qualcosa di questo giro. Lì ormai se non si comincia, non si comincia da nessuna parte. Esatto. A dopo Piero Augusto. Grazie. Ciao, un abbraccio. Grazie Piero Augusto Stagi. Voci dal giro. Allora, a dopo il nome del vincitore, chi è il vincitore? Adesso me lo comunicano dalla regia, comunque vedo diverse risposte corrette, risposta esatta. Chi fu il primo straniero a vincere il Giro d'Italia? Ugo Koblet nel 1950. Marco da Firenze è un ascoltatore in linea, non è il vincitore, che è Filippo Da Lucca in questo caso, che vince il polsino di Van Basso. Marco! Buonasera, sempre Toscana è comunque. Sempre Toscana è. Le volevo dire per la finale di ieri di basket, che veramente è stata emozionante e mi sono ritrovato a tifare come un bambino per l'Olympiacos. Anch'io. Ma veramente è stata molto bella e secondo me riconcilia proprio il basket, a cui dovrebbe essere veramente dato più spazio. Per fare un parallelismo col calcio, mi è sembrato di vedere quasi un Milan-Liverpool 3-0 che poi, insomma, a parte sì, il CSKA quando non ha giocato proprio benissimo come il Milan quella volta, però era strafavorita. Poi, abbiamo capito, caro Marco, una volta di più, la ringrazio ma devo chiudere, abbiamo capito una volta di più che per fortuna nello sport giocano i giocatori e allenano gli allenatori e non vanno in campo gli estratti conto, perché un budget come quello del CSKA Mosca non ce l'aveva nessuno in Europa. Ci fermiamo qui e ci sentiamo domani. Franco Piantarini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Yeah.